Molto bello. Dr. Jan Prelog. Oder grazie. Dottor Randi. Sì, io vengo dalla Università di Milano, mi occupo di storia della filosofia medievale, in particolare del tema della presenza di Milano al 14° secolo. Molte grazie. Credo che la sentiamo benissimo. Ah, benissimo. Sì, ma io ho una voce particolarmente stentorea, questo è il fatto. Quindi questo è solo merito mio. Non vostro che insistete a stare là dietro. Dottor Gerhard Roche, oh dai, dove sei? Ah, ho saltato, ja, gut, nachher, bitte sehr. Über Venedig, vielen Dank. Sì, ho saltato, ma lei sa che peraltro lei è una delle mie preferite, quindi non è certo. Dottoressa Daniela Rando. Molte grazie. Schwarz Andreas, Dr. Schwarz Andreas. Ich arbeite am Institut für österreichische Geschichtsforschung in Wien und beschäftige mich vor allem mit Themen der frühmittelalterlichen Geschichte. Vielen Dank. Dr. Gustav Seibt. Ja, ich studiere an der Universität Konstanz und schreibe gerade meine Magisterarbeit über Erzählformen der italienischen Politik des Trecento. Molto bene, grazie molto. Adesso abbiamo fatto questo giro. Spero che, insomma, adagio adagio tutti quanti intervengano poi nella discussione come è doveroso. Il programma di stamattina è un programma classico perché abbiamo una relazione italiana e una relazione tedesca e quindi adesso, siccome è il professor Cardini che terrà la relazione, immediatamente la responsabilità della conduzione passa al professor Elze. Ja, Herr Cardini hat von Seite 26 bis Seite 30 in diesem Heft einen umfangreichen Riassunto seines Textes geliefert. Er wird Ihnen diesen Text aber nicht vorlesen, sondern sozusagen kommentieren, erweitern und dazu gebe ich ihm gleich das Wort. Bitte. Sì, trattandosi di un testo, quello che ho preparato, molto lungo, mi scuserete, ma preferisco commentarvi brevemente. Quanto tempo posso parlare? Grazie. Commentarvi brevemente, o più o meno brevemente, il riassunto che voi avete e delle scorrettezze nel testo del quale avrete trovato, io faccio ammenda perché è colpa mia, non della segreteria, questo lo dico per correttezza, ci sono alcuni nomi, forse alcune date, errate, eccetera. La cosa risale a colpe personali, spero soltanto dattilografiche, comunque personali. Il problema che io vorrei in sintesi presentarvi è abbastanza ben dichiarato, direi, dal titolo. Federico Barbarossa e il romanticismo italiano è apparentemente almeno una dichiarazione così di intenti, almeno di contenuto abbastanza chiara. Dico abbastanza perché in realtà, contrariamente a quello che, perlomeno per quello poco che io ne so, contrariamente a quello che è accaduto in Germania, esattamente nel periodo oggetto di queste poche riflessioni, cioè grosso modo dal 1815, dall'avvio del periodo della Restaurazione, fino più o meno al 1870 e dintorni, cioè questo per dare dei parametri anche cronologici abbastanza precisi, cioè al momento in cui con la presa di Roma il processo unitario di Italia, abbiamo visto già ieri indirizzato in quali sensi, eccetera, può dirsi concluso. Ecco, contrariamente a quanto succede in Germania in questo periodo, in cui la figura di Federico Barbarossa acquista, sviluppando naturalmente tematiche già precedenti anche esistenti anche nel Settecento, acquista una proporzione di protagonista, in Italia questo naturalmente non è successo. non è successo nemmeno quello che dal titolo che io ho posto a questa comunicazione potrebbe parere, cioè Federico Barbarossa non è presentato da nessuno dei molti storici, ma soprattutto direi letterati, poeti e pittori, mi dispiace di non potermi dilungare su quest'ultimo aspetto della fama di Federico, la fama tradotta in termini grafici, pittorici, dai pittori del romanticismo italiano, o del romanticismo storico se volete, e Federico ha sì proporzioni di antagonista se volete, ma la sua figura va sempre vista non di per sé stessa, ma funzionalizzata rispetto ad un momento che gli uomini del romanticismo italiano e in generale di quello che in Italia si chiama il Risorgimento ritengono fondamentale nella storia d'Italia, che come è noto il XII secolo, e in particolare rispetto a una serie di fatti, di avvenimenti, di movimenti. Quindi Federico risalta nel suo ruolo di antagonista della storia della libertà e dell'unità d'Italia, e quindi vedete già le proporzioni ideologiche evidentemente di questo modo di presentare la figura dell'imperatore, in rapporto evidentemente alla Lega Lombarda, in rapporto a certi grandi fatti che sono enucleati quasi da la maggior parte degli autori di cui brevemente parlerò, che sono il giuramento di Pontida, con tutta la problematica già muratoriana che questo patto comporta, ivi compresa la sua discussa storicità, e su questo il Risorgimento italiano ha polemizzato. Il giuramento di Pontida, dicevo, la Lega Lombarda in generale come movimento diciamo di lunga durata, con gli accenti posti su due episodi emblematici, episodi di marca e di segno già consacrato dalla grande opera storiografica di Muratori, che sono evidentemente la battaglia di Legnano e la pace di Costanza. Quindi Federico Barbarossa va visto in modo funzionale rispetto a questi interessi che da parte degli autori italiani non sono mai, direi, incentrati, come invece succede forse in area germanica, sulla sua persona, ma sono incentrati sulla sua persona in rapporto alla storia italiana e in particolar modo nel suo ruolo antagonistico rispetto a questi movimenti. Vi sono in particolare due momenti che erano già stati sottolineati da Benedetto Croce nella sua storia della storiografia del XIX secolo, due momenti importanti, uno diciamo veramente maggiore, anzi centrale, e uno minore, più episodico, ma su cui se avrò tempo vorrei spendere alcune parole, due momenti in cui la polemica attorno al Barbarossa si addensa. Questi lunghi momenti sono, uno, quello che va grosso modo dagli anni 20, dai movimenti politici, i moti del 21 e poi la lunga serie di moti che si scagliona fra 30 e 34 fino alla vigilia del 48, e questo primo momento in cui si parla molto del Barbarossa, perché si parla molto di Lega Lombarda, perché si parla molto evidentemente di Legnano, è segnato direi da una grande presenza, una qualificante presenza ideologica, con tutto quanto anche di distorcimento della realtà storica, se volete, tutto questo comporta, che è il segno dato all'interpretazione di Legnano e della Lega Lombarda da parte del movimento neoguelfo, e quindi evidentemente soprattutto da parte da una parte di un discorso già avviato dal Troia e continuato da Balbo, con grosse differenze, soprattutto in rapporto per esempio direi al ruolo del pontefice, che secondo il Troia è perfettamente funzionale alla libertà dei comuni, mentre invece il Balbo fa delle differenze interessanti, fra l'altro direi visti i tempi coraggiosamente rispetto all'opinione pubblica alla quale il Balbo stesso si dirigeva, osservando come in ordine, queste cose Balbo le scriveva nel 1843, le avesse scritte 6 anni dopo sarebbero state più coscienti e più significative ancora, osservando come Papa Alessandro III non poteva per esempio spingere la sua opposizione a Federico Barbarossa in vantaggio del movimento comunale fino a rischiare la prosecuzione dello scisma, perché Papa Alessandro, proprio in quanto Papa, è all'unità del mondo cristiano occidentale, se volete, che doveva anzitutto pensare. E in questa osservazione del Balbo, che poi sparisce purtroppo in quel sommario della storia d'Italia, se ho ben visto, che invece pubblicato nell'Enciclopedia Popolare del Pomba nel 1946 diventa un po', insieme al primato di Gioberti, ma direi forse addirittura di più del primato di Gioberti, perché la sua diffusione è maggiore, questa osservazione molto fine che il Balbo fa nei suoi pensieri sulla storia d'Italia, sparisce poi nel sommario a vantaggio, direi, di una linea interpretativa della Lega Lombarda, di Legnano, di Pontida, della pace di Costanza, più consona, quindi anche demagogicamente consona, se volete, a quello che stava succedendo in quei momenti. Quindi la fama del Barbarossa, e diciamolo pure la cattiva fama, la pessima fama del Barbarossa in Italia legata al movimento risorgimentale, è proprio connessa all'ideologismo neoguelfo ed ha il suo punto d'arrivo, direi, nei fatti del 48, o meglio, diciamo pure del 49, la famosa allocuzione di Pio IX del 29 aprile del 49, che segna il divorzio, che poi è maturato, come tutti sappiamo, quei termini drammatici che conosciamo, il divorzio tra la causa del pontificato liberale, fra virgolette, o apparentemente liberale, o quello che si era creduto, il momento del disincanto, diciamo, il divorzio quindi fra la causa liberale e la causa dei comuni. E a quel punto anche l'immagine del Barbarossa, e io vorrei proprio farvi un esempio purtroppo scheletrico di questo, a quel punto ci sarà veramente un tournant. L'immagine del Barbarossa cambierà, e soprattutto cambierà evidentemente l'apprezzamento dell'episodio legnano. Il secondo episodio a cui alludevo, sul quale mi vorrei soffermare, dopo questo ventennio circa in cui Legnano veramente diventa un leitmotiv della produzione risorgimentale italiana a tutti i livelli, il secondo momento è attorno agli anni 70 e con, in particolar modo, attorno al 1876, per un motivo veramente legato a una scadenza centenaria. Il 1876 è il settimo centenario della battaglia di Legnano. La battaglia di Legnano a quel punto è nota e importante, ancora una volta ripeto, ed è un concetto che vorrei sottolineare, più a livello di letteratura e, se si vuole, di propaganda che non a livello seriamente e coscientemente storico. È importante perché la tradizione del 48, in fondo, la tradizione che vuole in Legnano il momento di grazia della, e nella Lega Lombarda il momento di grazia della storia dei nostri comuni del XII secolo, non si è spenta. Dopo il 49 ha perduto mordente, caduta di tono, però la celebrazione della Lega Lombarda e quindi l'esecrazione del Barbarossa è continuata attraverso una lunghissima serie di opere che sono al tempo stesso letterarie o pittoriche, come ho già detto, e anche, se si vuole, propagandistiche. Nello stesso tempo direi che dopo il 48 la storiografia, se preferite, ha riacquistato il suo campo, ha ripreso in ordine a Legnano, alla Lega Lombarda, eccetera, i suoi diritti, e quindi il discorso di Legnano si è profondamente storicizzato, il che rende naturalmente imbarazzante la celebrazione del 76, celebrazione voluta a due livelli. Da un lato il Comune di Milano, che ne fa un'occasione di patriottismo, al tempo stesso cittadino e unitario. Legnano, fra l'altro, si presta poco alla causa unitaria, più si prestava alla causa delle libertà d'Italia e alla causa evidentemente federale, lo stesso fatto della lettura anacronistica e non del tutto storica, finché volete, della Lega Lombarda come precedente di un movimento corale italiano era evidentemente una lettura federalistica, non a caso se ne serviranno in questa direzione, se ne servirà in questa direzione lo stesso Gioberti. Però nel 76 il clima italiano e il clima soprattutto dei rapporti italo-tedeschi era profondamente mutato e bisognava prendere atto anche di un'altra cosa, a mio avviso, che cioè la figura simbolica, se volete mitica, tra virgolette, di Federico Barbarossa, che fino a, direi fino agli anni 70, fino alla proclamazione del Reich nella sala degli specchi di Versailles, era rimasta ancorata alla vecchia idea di impero germanico e quindi era facile focalizzarla sulla, non dico sulla figura dell'imperatore d'Austria, questo no naturalmente, ma perlomeno su quello che per gli italiani era il tedesco, con molta approssimazione. E vorrei dilungarmi sull'uso, per esempio, che gli italiani, in un arco che va dal Berchet, che del resto riprende a sua volta testi precedenti, e che arriva fino all'abate Tosti, sull'uso proprio fatto da questo tipo di pubblicistica, che non è chiaramente storica, o che nel caso del Tosti è largamente parastorica, anche se il Tosti è un personaggio di grande erudizione, molto legato alla stessa erudizione muratoriana, come del resto il Niccolini, che presenta un altro aspetto della figura del Barbarossa, che si distacca dall'aspetto neoguelfo, quindi ne vorrei parlare a parte. Con tutta l'erudizione del Tosti, dicevo, evidentemente, davanti a opere come la storia della Lega Lombarda del Tosti, che è cominciata nel 1946, forse è cominciata anche prima sul piano dell'accoglimento della raccolta di materiali, ed è stata edita nel 49, ma con una dedica molto sintomatica a Pio IX, in cui veramente si dedica, che secondo la testimonianza del Tosti è stata approvata dal pontefice, in cui si chiede a Pio IX di accogliere il vessillo della libertà d'Italia, di essere per l'Italia dell'Ottocento l'Alessandro III del momento. Letteratura evidentemente epica, o storiografia epica, come l'ha definita, mi pare, lo stesso Benedetto Croce, e su questo forse non c'è bisogno di insistere ulteriormente, se non per far notare che proprio all'interno di questo tipo di letteratura, che ha il suo punto di partenza nelle fantasie del Berchet, che hanno avuto una popolarità a livello evidentemente qualificato, a livello colto, ma anche sul piano della diffusione popolare di certi temi, una grandissima popolarità, le fantasie del Berchet sono del 29, fino alla storia dell'abate Tosti, che è di un ventennio successivo, si va elaborando proprio quest'idea del tedesco, con l'approssimazione, no, fra tedesco, austro-tedesco, austriaco, eccetera, del tedesco come il secolare nemico d'Italia. Tutte queste cose sono state chiarite a più riprese da storici anche recenti, Ernesto Sestan, per esempio, in un intervento recente, osservando come viene accantonata progressivamente l'idea storica che si poteva trarre da precedenti storici, a partire dallo stesso Machiavelli, secondo cui l'inimicizia nazionale, se di inimicizia nazionale si poteva parlare, fra gli italiani e un certo tipo di stranieri, avrebbe dovuto semmai indirizzarsi, storicamente parlando, per i noti eventi tra la fine del 400 fino ai primi del 700, avrebbe dovuto indirizzarsi, e si era indirizzata in realtà, ai francesi o agli spagnoli, ma naturalmente fino al 49 l'obiettivo polemico francese-spagnolo non serve più, mentre è sull'obiettivo tedesco che ci si incentra. Evidentemente dopo il 49 il discorso veramente muterà di segno, e muterà di segno anche perché la grande disillusione, che proprio pesa molto su tutta la letteratura relativa alla Lega Lombarda, la grande disillusione causata dalla marcia indietro di Pio IX, fa sì che a quel punto gli obiettivi polemici diventino non solo il Papa, ma anche il Presidente della Repubblica Francese, poi Imperatore dei Francesi, che è il sostegno di quel che resta del potere temporale. E a quel punto evidentemente lo stesso antigermanesimo strisciante di una certa tradizione, in fondo forse anche storiografica, ma soprattutto, ripeto, letteraria e propagandistica, si attenua di molto. In questo quadro, che quindi trova un suo punto di riferimento nel Primato degli Italiani di Gioberti, che esce, come sappiamo, nel 1943 e che acquista questo carattere indotto, finché volete, casuale, esito, ho paura a usare questo aggettivo, ma lo uso lo stesso per brevità, casuale, finché volete, di quasi profezia, perché quelle cose che Gioberti scrive nel 1943 poi sembrano avverarsi, poi nel 1946 con l'ascesa al soglio pontificio di Mastai Ferretti e di Pio IX, e tutte queste cose hanno evidentemente un riscontro con la costruzione del mito di Legnano, del mito della Lega Lombarda, di cui il Gioberti, anche se in realtà parla relativamente poco di Legnano e della Lega Lombarda, per brevità di tempo non vi leggo brani di testi che peraltro sono noti, il Gioberti ha molto chiaramente presente questo aspetto del problema, e in questo si ricollega evidentemente a tutta la tradizione avviata dal Troia e poi elaboratasi attraverso e controllabile attraverso il carteggio Troia-Balbo e le varie osservazioni al riguardo molto interessanti e stimolanti fatte proprio da Balbo, che hanno inciso moltissimo anche su altri protagonisti della costruzione del mito di Legnano. Alludo soprattutto, sempre per brevità, quindi tagliando altri problemi, alludo soprattutto a Massimo D'Azeglio, che ha con Balbo i rapporti di vicinanza, di affinità, eccetera, che sono noti, il quale Massimo D'Azeglio è veramente uno dei protagonisti della costruzione del mito della Lega Lombarda e quindi, se volete, dell'antimito di Federico Barbarossa. Molto con grande cautela e anche con il suo solito humor, D'Azeglio racconta per esempio i suoi exploit pittorici, che del resto sono controllabili, come sapete, alla Galleria d'Arte Moderna di Torino, e ricorda come già nella a proposito del suo scritto sulla Sacra di San Michele, che se non sbaglio è del 29, lui avesse ricordato Legnano e come fosse Francesco Hayes che l'avesse ispirato alla sua opera di pittore rispetto a Legnano. Ma soprattutto D'Azeglio fra il 41 e il 45, con vari tentativi che forse si prolungano anche successivamente rispetto a questa data, cerca di scrivere addirittura un romanzo storico sulla Lega Lombarda. Duole, è un romanzo storico che poi è stato postumo, gli 8 capitoli mi pare che sono stati scritti da D'Azeglio sono stati pubblicati successivamente, Duole, dicevo, non imbattersi nel Barbarossa, perché sarebbe stato un incontro utile per il nostro discorso di stamani mattina, ma in questi 8 capitoli D'Azeglio arriva sì e no alla vigilia, all'antefatto della discesa di Federico. Quindi un grande affresco, storicamente molto appoggiato, soprattutto appoggiato direi alle cose del Balbo, quindi anche forse con quella insensibilità rispetto alla storia comunale, se si vuole, che al Balbo è stata rimproverata, alludo soprattutto alla recensione che del sommario della storia d'Italia fece Domenico Buffa, il quale a sua volta nel 1947 ha scritto una storia della Lega Lombarda, che però non è mai stata edita. Fu proposta dopo il fatidico 1949, credo anche ripetutamente al Vieusseux, che però gli disse chiaramente al Buffa, cioè al Buffa è rimasta la lettera in questo, che in fondo un tema come quello non avrebbe più tirato. Non mi ricordo più di quando è la lettera, non voglio perdere minuti andando a controllare, ma mi sembra che sia una lettera del 55-56, se non vado errato, ed è un chiaro segno di questi tempi. Ebbene, D'Azeglio, d'altra parte, anche nello stralcio di romanzo che lui pubblica sull'Antologia Italiana nel 1946, torna su questa sua bisogno, necessità di parlare della Lega Lombarda e di trattarne, e questo direi è sintomatico, vorrei collegarmi brevemente anche a quanto è stato detto ieri mattina al riguardo, è sintomatico di un fatto. D'Azeglio osserva che in lui nasceva il bisogno di parlare di queste cose dal punto di vista letterario, dal punto di vista, se volete, poetico, piuttosto che non, sappiamo quanto invece D'Azeglio fosse versato anche in cose storiche, piuttosto che non a livello storico. In questo c'erano precedenti illustri, Silvio Pellico, quale per esempio aveva tracciato già nel conciliatore, nella seconda annata del conciliatore, la traccia proprio di una possibile tragedia che si sarebbe potuta scrivere sul Barbarossa e sul Barbarossa dopo Legnano, e che poi riprende nel 21 quando è prigioniero a Bologna, scusate, a Venezia, riprende questo tema e dice di aver pensato a trasformare questa idea di tragedia in un poema, poi non ne fa di nulla. Ma vi vorrei leggere brevissimamente proprio la traccia di tragedia che il Pellico già dal 19 proponeva proprio di dedicare al Barbarossa, con un riferimento evidente al fascino alfieriano del tiranno, proprio nel senso direi anche molto propriamente alfieriano del termine, e del resto questo discorso tornerà in Niccolini, anche se le differenze in tutti i sensi fra Pellico e Niccolini non hanno bisogno qui di essere ricordate. Quindi ecco cosa dice il Pellico. Il poeta, che dopo aver dipinto questo principe vittorioso in tutta l'ebbrezza dell'insolenza, come il più intrepido dei conquistatori, insultando alle rovine della distrutta Milano, lo rappresentasse quindi, alla fine del dramma, fuggiasco per le Alpi, avvilito per la sconfitta, tremante ad ogni pericolo, insomma, volgare e premuroso, più della vita che della gloria. Sono i termini che tornano, direi, con una grandissima precisione, anche se con una ferocia di linguaggio, con una violenza che poi affascinerà, come sapete, il Carducci ancora a decenni di distanza, tornano nel Berchet. Ora, del Berchet di solito si citano giustamente le fantasie, anche perché le fantasie sono particolarmente dedicate, con questo tema che del resto non è solo romantico, è già medievale, del sogno-visione, le fantasie sono dedicate proprio rispettivamente a Pontida, a Legnano e a Costanza. Quindi proprio ai tre punti chiave lungo i quali si sviluppa questa mitologia storica risorgimentale. Bene, però del Berchet si dovrebbe forse ricordare proprio anche la lettera, una lettera scritta da Piccadilly, perlomeno datata da Piccadilly nel 29, con cui il Berchet accompagna le fantasie. Con degli elementi, purtroppo anche il brano che aveva estrapolato è un po' troppo lungo per leggerlo, ma con degli elementi che vorrei rilevare, per esempio, a parte l'aggettivo dato a Federico, aggettivo di seccafistole, difficilmente forse traducibile in tedesco, non lo so, abbastanza comprensibile anche in italiano, ma al di là di quello, la abitudine, evidentemente voluta e ben calcolata, di chiamare Federico, non Federico di Svevia, nemmeno Federico di Hohenstaufen, ma Federico Hohenstaufen, con un tono che ricorda molto da vicino il Luigi Capeto dei Giacobini. Quindi con una volontà, se volete, anche demitrizzatrice di Federico, che poi torna proprio quando il Berchet da par suo, e quindi con tutto un altro stile rispetto al Pellico, descrive la fuga disperata di Federico, questo aspetto che ha affascinato molto anche pittori, amo Scassioli e via discorrendo, la fuga disperata di Federico dopo la vergogna di Legnano, lo descrive in atto di strapparsi la barba proprio a larghe mani, con un effetto che è indubbiamente anche comico, forse con un aggettivo oggi di moda si dovrebbe dire dissacrante. Dissacrazione di cui tutto sommato forse il Berchet avvertiva il bisogno, proprio perché in una lunga tradizione che parte dal Muratori, il quale rispetto alla storia della Lega Lombarda, rispetto a Federico, ha una posizione, come sapete, molto, molto cauta, come del resto era logico che gli avesse, che da una parte condanna sì la ferocia di Federico, mi pare che la frase che lui usa in questa circostanza sia: i buoni principi costruiscono le città, i cattivi le atterrano, le distruggono. Però d'altra parte condanna anche, con una tematica che poi tornerà qua e là nella stessa letteratura risorgimentale, anche se molto edulcorata, condanna per esempio la cupidigia dei comuni. condanna o perlomeno ha parole di riserva circa un certo tipo di sviluppo della politica, dell'economia, dei comuni, eccetera, che naturalmente attenuano di molto, parlo non mettendomi dall'angolo visuale da cui credo uno storico d'oggi dovrebbe correttamente mettersi, ma parlo mettendomi dall'angolo di visuale del lettore ottocentesco e del lettore evidentemente che va alla ricerca della Lega Lombarda o di Legnano per trovarci una parola nel senso che gli interessa, evidentemente a questo punto il Muratori non era più troppo utilizzabile, se non dal punto di vista del materiale splendido che gli aveva raccolto, per un discorso nella direzione risorgimentale. Non a caso la cosa che io ho trovato più divertente da questo punto di vista è una citazione en passant nel diario intimo di Tommaseo, il quale, come sapete, non era esattamente un uomo che sapesse troppo mantenere il giusto mezzo, e il Tommaseo dice parole estasiate circa la lettura del Muratori, da cui traspare una realtà. Cioè, da un lato evidentemente la conoscenza di questi testi da parte del Muratori e di Tommaseo, quindi la sua conoscenza della tematica storica obiettiva, ma anche la capacità nello stesso senso e nello stesso tempo di fare una lettura di questi testi muratoriani, aridi forzatamente, di farne una lettura commossa, una lettura partecipata, perché quel che interessa in questo momento non è il ristabilimento evidentemente della realtà storica delle cose, che usando il Muratori si sarebbe pur potuto avere, ma quel che interessa il Tommaseo è la rievocazione della Lega Lombarda, e quindi l'opera erudita di Muratori ripresa, riletta, riassunta come segno di un momento di riscossa delle libertà italiane e quindi di riscatto della patria. Ebbene, questo quadro che ha pure le sue eccezioni, per esempio il Cattaneo, scrivendo nel 44 a proposito delle città lombarde, ha sì anche lui i suoi bravi accenni a Legnano, a Pontida, eccetera, ma proprio rifacendosi alla sua lettura delle cose, e quindi rifacendosi anche già a quanto sullo stesso argomento aveva appena accennato, ma con accenno importante, il Romagnosi, evidentemente presenta una realtà che in quel momento, 1844, non era una realtà predicabile, per così dire, non era una realtà suscettibile di entusiasmare, eccetera, e si capisce quindi come invece le simpatie dell'opinione pubblica colta italiana e dell'opinione pubblica, diciamo così, patriottica italiana, siano andate piuttosto evidentemente all'interpretazione neoguelfa di Legnano, all'interpretazione neoguelfa della Lega Lombarda. È una strana, e mi avvio alla conclusione, è una strana avventura imbattersi in tutto questo in un testo che apparentemente è un testo isolato, che è l'Arnaldo da Brescia di Giovanni Battista Niccolini. Lascio andare legami fra Niccolini e l'ideologia neoghibellina, eccetera, perché non è esattamente questo che mi interessa. Quanto vorrei far notare questo, l'Arnaldo da Brescia è contemporaneo al primato, esce nel 1843. È in un certo senso anch'esso un testo profetico, naturalmente con tutte le virgolette del caso, cioè un testo profetico in quanto è stato avvertito come un senso profetico, ma con uno scarto cronologico qualificante. Il primato ha ottenuto la sua sanzione di testo profetico a partire dal 46 per una breve stagione di, chiamiamola, di illusione o di incanto, non so, per usare un termine weberiano, che è durata fino al 49. E poi naturalmente è stato immediatamente datato e come tale posto d'accanto. Viceversa, la profeticità del testo del Niccolini, dell'Arnaldo da Brescia, sta altrove. Sta nell'avere nel 43 dato una teorizzazione quasi del fatto che il potere, sia potere regio, sia potere pontificio, sacerdotale, diciamo, non può per sua natura se non appoggiarsi nei due rami che lo compongono, il sacerdotale e il laico, diciamo così, il potere non può che appoggiare se stesso contro naturalmente qualunque tipo di istanza liberatoria, sia a livello morale ed ecclesiale, se volete il caso di Arnaldo da Brescia è sintomatico, sia a livello propriamente politico. In questo contesto la vera figura di antagonista di Arnaldo, come del resto è giusto e come è logico, la figura alfieriana del tiranno, non è tanto Federico, e oserei dire che non è nemmeno Adriano. Mi rendo conto di addentrarmi in un campo che è quello letterario in cui veramente non ho competenza, ma la figura del tiranno, la figura dell'antieroe, antieroe dotato a sua volta peraltro di un certo tipo di dignità, appunto alfieriana, di grandezza a suo modo, si coglie nell'endiadi Adriano Federico, che è un'endiadi estremamente mossa, partecipata, drammatica, è l'endiadi di due uomini che si odiano, che partono da principi molto diversi, che Niccolini descrive anche con una certa adesione a quello che egli poteva sapere della realtà storica. Ecco, una cosa da sottolineare al riguardo è il legame che c'è, che è veramente stretto, fra Niccolini e la tradizione muratoriana. Niccolini conosce bene Ottone di Frisinga, per esempio. Ottone di Frisinga è uno dei personaggi più interessanti, anche più vivi, più tormentati, perché è un uomo giusto, sostanzialmente, della sua tragedia. È l'uomo che, pur essendo, pur comprendendo da quale parte starebbe la giustizia, è legato a doppio filo, la sua natura di monaco, di vescovo da una parte, di dignitario dell'impero e parente dell'imperatore dall'altro, fa sì che, conoscendo il giusto, egli sia, per così dire, dalla parte, diciamo, sbagliata. Ebbene, e quindi Niccolini presenta una immagine, se si vuole, alternativa di Federico, perché certamente in questa endia di Adriano Federico, che copre il ruolo alfieriano del tiranno nella tragedia del Niccolini, la parte più simpatica aspetta Federico, che è tiranno straniero. L'osservazione che ormai in quei momenti e nell'opinione pubblica italiana l'idea di tiranno immediatamente, quindi non ne sto facendo un discorso testuale, un discorso di circolazione dei testi, ma di circolazione delle idee, immediatamente la figura del tiranno richiamava tiranno, quindi straniero, quindi Federico Barbarossa, proprio come mito, antimito storiografico. Questa osservazione ci viene dal diario, per esempio, di Alexander Herzen, il quale proprio parlava di questo, diceva a Roma, dove lui fu, se non sbaglio, fra 47 e 48, di essere stato colpito dalla popolarità che Federico aveva come figura, come misura del tiranno. Già del resto, successivamente, quando Friedrich Engels ricorderà agli italiani nel 49 che in area tedesca si celebrava il feldmaresciallo Radetzky come il nuovo Barbarossa, darà proprio l'immagine di questo. Pensiamo a quello che Radetzky ha significato per una certa tradizione, inutile dire quanto seria o non seria in Italia e quanto invece in area austro-germanica. Bene, Niccolini, facendo questa fotografia del rapporto fra trono e altare, che andava bene tutto sommato per il mondo della Santa Alleanza e ancora per il mondo di Papa Gregorio XVI, ma non sarebbe più andata bene per Pio IX, recupera in attualità quando Pio IX, dopo il 49, si avvia sulla strada che poi porterà a lui e le vicende italiane al 1870. Allora veramente la espressione, la presentazione di Niccolini diventa di nuovo attuale. Quando il bacio Sidan, Cesare e Piero, come diceva Carducci, proprio ispirandosi non solo evidentemente a certi fatti del suo tempo, ma anche ispirandosi probabilmente direttamente, mi pare anche che lo dica, a questa a questa pagina del Niccolini. Niccolini è, per esempio, noto, però non mi risulta, ma è una carenza nella ricerca mia, non, quindi può darsi che sia successo, non mi risulta che la tragedia di Niccolini sia stata portata in scena in quel periodo, ma penso che sia probabile che questo sia stato fatto, nei primi mesi del 49, quando, proprio anzi nei primi giorni del 49, durante le feste di Carnevale a Roma, viene presentata all'Argentina, mi pare che la data esatta sia il 7 gennaio del 49, la Battaglia di Legnano di Giuseppe Verdi, sul libretto di Cammarano, che è un'altra pagina estremamente importante, anche proprio per la importanza che ha avuto a livello popolare nella creazione di questo mito antimito di Federico. Si può dire che in fondo la Battaglia di Legnano di Verdi e le parole di Cammarano, a cominciare dal celebre coro Viva Italia, eccetera, che apre l'opera, hanno sostituito le fantasie del Berchet nell'immaginario popolare, e questo si tratta, ecco, di un immaginario popolare che è rimasto a lungo. Io direi che attraverso tutta una serie di revivals, che non è il caso qui di ricordare, è un immaginario che addirittura è arrivato fino all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, per tutta una serie di vicissitudini complesse, ma sostanzialmente note. Quindi la visione della lotta fra la libertà e, in secondo ordine, anche il tema unitario già affiora, l'Italia da un lato e la tirannide straniera dall'altro. La vicenda del librettistica del testo di Cammarano sarebbe veramente meritevole di attenzione, io cercherò di mettercela scrivendo quanto sto dicendo adesso per gli atti, perché si tratta di un testo avviato prima della locuzione di Pio IX, poi modificato successivamente e che nella sua redazione definitiva presenta veramente Legnano come una gloria nazionale per un verso e liberatrice per un altro e popolare per un altro ancora, con un'esclusione accurata, troppo accurata per essere casuale, non lo è infatti, la prima viene data a pochi giorni dalla proclamazione della Repubblica Romana, con un'esclusione assoluta di quel tema invece religioso e di quel legame tra la Legnano, gloria della libertà d'Italia, e la Legnano, gloria della religiosità mistica dei nostri comuni, che era il leitmotiv introdotto, stavo per dire, da Gioberti, forse non avrei errato di tutto, ma sul piano testuale direi di sì, che un antecedente del Gioberti, se proprio vogliamo andare a caccia d'antecedenti, si trova già nel 42, nell'Ode, i versi sciolti, che Terenzio Mamiani dedica a Dio, altro elemento conosciutissimo da Carducci, dedica proprio a Dio per la commemorazione della Battaglia di Legnano, dove non solo c'è il rapporto già anch'esso profetico di Pio IX, se volete, fra papato e movimento comunale, ma c'è proprio la puntualizzazione dell'elemento mistico che se si vuole si può trovare in molti episodi di guerra e non solo evidentemente della società comunale, ma e non solo del Medioevo, ma che viene utilizzato da Mamiani proprio nella direzione del legame tra causa della libertà d'Italia e causa del papato e quindi della cristianità contro un imperatore che non è soltanto un tiranno, ma è anche uno scomunicato e un fautore di scismi. Quest'anello fortissimo che ha funzionato fino al 49 si sbriciola poi ai primi del 40, già alla metà del 48 e poi ai primi del 49, e non a caso nella Battaglia di Legnano noi non troviamo cenni, non dico alla religiosità cristiana, questa sì, questa c'è, del resto era ovvia, nella stessa messa in scena sarebbe stata inevitabile, ma non troviamo cenni se non quello del coro dei monaci all'interno di Sant'Ambrogio, alla Chiesa come istituzione organizzata. Mentre invece troviamo più che un cenno, direi, a un tipo di religiosità intrisa anche di elementi ossianici, il riferimento, per esempio, che dopo Galvano Fiamma era diventato tradizionale, ma che durante il Risorgimento è molto usato, alla Compagnia della Morte, con tutta una messa in scena che poi verrà ripresa dai pittori, penso soprattutto a Cassioli, ma non solo a lui, con tutta una messa in scena che per un verso richiama elementi ossianici, funerei, eccetera, e per un altro una simbologia funerea cristiana consueta, ma che in particolar modo, penso in particolar modo proprio alla scena del terzo atto della battaglia di Legnano, che richiama un elemento quasi iniziatico, esoterico, di tipo massonico. L'entrata e la sfilata dei cavalieri della Compagnia della Morte richiama proprio una cerimonia iniziale, nella stessa simbologia usata, una cerimonia di tipo massonico, che poi alcune messe in scena, alcuni costumisti, alcuni scenografi, eccetera, nel corso di tutta la seconda metà dell'Ottocento, il tema ci porterebbe a Carducci, all'impegno politico, all'impegno di Carducci nella massoneria, eccetera, tutta una serie di scenografi e di costumisti ha forse sottolineato. Anche in questo mi mancano certi elementi di ricerca che cercherò di completare prima di scrivere definitivamente questo intervento. Ebbene, dopo il 49, naturalmente, dicevo che l'erudizione storica riprende i suoi diritti, escono fra l'altro opere importanti come quella di Hegel, eccetera, e il discorso su Legnano si va fatalmente sfumando verso un tipo di retorica convenzionale, che come tale non morirà mai, direi anzi che sarà molto dura a morire, costituirà un po' un aspetto anche un po' noioso, direi ancora dei miei, e quindi penso di quasi tutti i presenti, dei nostri ricordi di scuola, per esempio. Quindi il riferimento che io ho fatto molto così en passant a Vamba, a Bertelli, al giornalino di Gian Burrasca, in fondo al mio riassunto, sarebbe in realtà meritevole di essere approfondito, perché questa triade di tiranni presentata da Gian Burrasca, Federico Barbarossa, il maresciallo Radeschi e il Zelino del Romano, mi pare, è in realtà qualche cosa che innerva poi anche tutta una manualistica scolastica, dico, che come tale si sta già cominciando a farlo. Tullio De Mauro sta impiantando proprio un lavoro interessante a questo livello, e come tale sarebbe degna di essere studiata, perché ha evidentemente mantenuto un immaginario attraverso il quale, non so, il tedesco del Berchet è arrivato fino in Italia, fino alla vigilia dei giorni nostri, ripeto, attraverso tutta una serie di vicissitudini complesse, alcune anche molto dolorose, ma che tuttavia hanno contribuito, sempre mutandola un po' di segno, a mantenere questo antimito di Federico Barbarossa e di Federico Barbarossa come prototipo del tedesco. Una notazione brevissima, e me ne dispiaccio perché il tema sarebbe interessante, colpa mia se non ho trovato il tempo di esporvelo degnamente, sulle celebrazioni del 76. Nel 76 il Comune di Milano imprende una serie di celebrazioni abbastanza grandiose, che però, anche per colpa di un pizzico di sfortuna, vanno in gran parte male. Per esempio, la più celebre delle sfortune al riguardo è quella occorsa al monumento di Legnano, il celebre monumento di Enrico Butti, solo che Enrico Butti il monumento l'ha collocato, credo, nel 1900. Proprio credo nell'anno 1900. Nel 76, si riuscì soltanto a inaugurare un basamento, ma non fu il solo incidente, perché ce ne furono altri meno buffi, ma sostanziali. Soprattutto ci fu un fatto, lo scontro fra una visione ormai post-risorgimentale, direi di segno in senso lato, laico-democratico da un lato, e la visione cattolica neo-neo-guelfa, se volete, o appoggiata a un revival, evidentemente non innocente, chiaramente, del mito di Legnano. In sintesi, i problemi sono questi. Nel 66, voi sapete che è già uscita questa grande storia diplomatica della Lega Lombarda di Cesare Vignati, in cui già il Vignati, con tutta la serietà dello storico, eccetera, riproponeva un discorso muratoriano non simpatico, non gradito all'opinione pubblica risorgimentale, che era il dubbio sulla storicità di Pontida, e per questo sul Vignati si rovesciò tutta una serie di critiche, di osservazioni, la maggior parte critiche evidentemente di tipo extra storico, ma che addolorarono fra l'altro il Vignati. Il Vignati, chissà, forse per farsi perdonare questa sua, peraltro doverosa come mestiere di storico, questa sua impertinenza, a sua volta invece nel 76 scese in campo contro Francesco Bertolini, il quale aveva avuto nella sua storia della Lega Lombarda, mi pare che il titolo sia questo, non controllo per brevità, aveva avuto improntitudini ben più gravi. Intanto aveva osservato che tutto sommato non era poi il caso di andare sempre a tornare su questi temi, le lotte intestine tra i comuni italiani, perché di questo si trattava. Muratori lo sapeva, Balbo l'aveva osservato. Chissà che D'Azeglio non abbia cessato di scrivere questo romanzo, e lui lo dice in una lettera del 55, proprio perché si era accorto che tutto sommato alla base del problema di Pontida e di Legnano c'è da un lato una lotta fra comuni, il che è del tutto normale, ma in termini risorgimentali veniva tradotto come lotta fratricida, e dall'altro un problema di natura feudale, se vogliamo. D'Azeglio questo lo dice con chiarezza in una lettera del 55. Bertolini non solo esprime i suoi dubbi sull'opportunità di tornare su memorie che in fondo non sono gradite ai tedeschi, e la ragione di questa delicatezza nei confronti dei tedeschi è chiara se noi pensiamo alla politica estera di quel momento, e naturalmente alle simpatie che per la Germania e per il nuovo Reich nutre la sinistra italiana. Non solo il Bertolini dice questo, era già un motivo di scandalo, lui fa di peggio, lui riprende le osservazioni di Ficker in ordine alla datazione dei due famosi documenti, le due petizioni, datate dal Muratori e anche dal Pert, all'83 mi pare rispettivamente, la prima, la 77 e la seconda, osserva invece che Ficker ha retrodatato questi documenti ponendoli nel 75 e ne trae una conclusione assolutamente distaccante, tragica per tutta la tradizione storica o parastorica su cui si sosteneva questo castello di Monte, cioè che in fondo con i preliminari di Montebello del 75 i comuni si avessero fatto su questa strada. È vero che è l'argomento del sé che ha utilizzato da Gioberti: se avesse visto vinto il Barbarossa non ci sarebbero le città, l'Italia sarebbe in mano signorotti, eccetera, eccetera. Anche l'argomento del sé di Bertolini è storicamente parlato. Comunque, però è molto più graffiante, diciamo, anche perché storicamente molto più appoggiato. Se Montebello avesse avuto un seguito, Legnano sarebbe stata inutile, anzi non ci sarebbe stata, e la pace di Costanza sarebbe stata inutile, nemmeno la pace di Costanza ci sarebbe stata. In altri termini vuol dire che Montebello, questi documenti retrodatati dal Ficker, avevano come esito ultimo quello di far sembrare Legnano una battaglia inutile e la pace di Costanza non una vittoria dei comuni, ma addirittura un arretramento dei comuni 8 anni dopo rispetto a quello che avrebbero ottenuto nel 75. Sì, c'è forse un certo elemento a livello politico di maniacalità dei trattati, che è molto tipicamente, forse più tipicamente tardo ottocentesco che non del XII secolo, però queste osservazioni erano evidentemente tali che hanno veramente aperto la polemica sulle celebrazioni del 76. Vignati, sacerdote, cattolico, eccetera, è sceso in campo contro questa osservazione del Bertolini che gli sembra radere a zero tutta una tradizione illustre dal punto di vista storico e non solo storico, e le celebrazioni di Legnano si sono proprio divise in un silenzio anche abbastanza in qualche caso irritato del mondo culturale che per brevità chiamerei laico, laico-democratico, eccetera, da un lato, e invece in una celebrazione proprio di revival neo-guelfo dei cattolici, con comitati cittadini, con indirizzi di saluto a Pio IX, eccetera, e con quella osservazione che trova proprio il suo massimo di espressione nella storia della Lega Lombarda del padre Pietro Balan, che è peraltro un grosso lavoro, un lavoro scientificamente appoggiato, attento, erudito, accurato quanto poteva esserlo, anche data la circostanza in cui esce, quindi una circostanza celebrativa, dove il padre Balan, fra tutta una serie di osservazioni, ne fa una particolarmente graffiante a sua volta, che è questa: il chiedersi chi abbia meglio servito la causa della patria, se coloro che a Legnano hanno impedito che il Barbarossa rientrasse nuovamente a Roma, come aveva fatto a due riprese dissacrandola, o se invece quelli che, nel nome di un progetto che evidentemente Balan non condivideva, avevano espugnato Roma, avevano cacciato il pontefice, l'avevano ridotto in prigionia, eccetera, eccetera. Quindi a questo punto evidentemente la polemica era diventata insanabile. Di queste due ali della polemica mi piacerebbe potermi intrattenere non tanto sul Carducci, perché ci sarà su questo una relazione apposita, che probabilmente parlerà anche dei campi di Marengo, dove Carducci riprende questa bellissima immagine già di Sismondi, poi ripresa dal Chinè, eccetera, della venerazione che i comuni, nonostante tutto, il Chinè l'aveva condannata duramente, insomma, e in maniera evidentemente antistorica, e la venerazione che i comuni portano al nomen imperi, eccetera, e ne fa quel quadro che tutti conosciamo, questa bella poesia del 1872, mi pare, dove in parte sembra quasi ritrattare quello che il Carducci stesso aveva detto nel sonetto a Dante: odio il tuo santo impero, avrei strappato con la spada dalla festa di Federico la corona, eccetera. Dove invece c'è un'ammirazione per il nomen imperi, in cui però confluiscono varie componenti. Certo, si dice una banalità, osservandolo, e la venerazione carducciana, e non solo carducciana, per la sacralità romana, che in un certo modo, distorto, tutto quello che si vuole, riesce a passare anche nell'impero romano-germanico, la componente quindi anche dantesca. Ma io direi la stessa componente massonica di Carducci, la quale lo porta, il libro di Aldo Mola forse sul Gran Maestro Lemmi dà qualche indicazione in questo senso, un libro recente, e lo porta proprio a una valutazione del potere laico che in quel momento non fa soltanto il gioco, certamente non più della casa Asburgo, semmai della casa di Hohenzollern, ma fa anche in parte un po' il gioco della Bianca Croce di Savoia, della nuova regalità. E non a caso voi sapete che la regina Margherita insisteva col Carducci perché il Carducci finisse la canzone di Legnano. Il Carducci non l'ha mai finita, nonostante le reiterate dichiarazioni alla Vivanti, alla regina stessa, perché probabilmente ormai, tutto sommato, non solo questo tema di Legnano era diventato desueto, scolastico, noioso, eccetera, ma anche perché forse questo tema di Legnano era suscettibile di essere sospetto di poter essere strumentalizzato poi da una parte politica evidentemente lontana da quella di Carducci e avversa, in quel momento anche in maniera abbastanza violenta, avversa alla parte del Carducci. Ci sarebbe da confrontare, termino veramente, questo imbarazzo italiano di Legnano dopo l'unità d'Italia e dopo il governo, dopo l'ascesa al governo della sinistra e la politica filoprussiana, filogermanica della sinistra, e direi la sensibilità filotedesca della sinistra, tutto questo sarebbe da confrontare proprio con lo spostamento del mito di Federico Barbarossa nella cultura tedesca da probabilmente mito sacralizzatore del Reich, come era sempre stato fino ad allora, alla cattura da parte del nuovo Reich degli Hohenzollern. Alludo a certi fatti che sarebbe, mi vergogno un po' a ricordarne in presenza dei colleghi tedeschi, che spero ne parleranno molto meglio di me in sede di dibattito, ma certi la ripresa del mito barbarossiano, già Novalis, Rückert, eccetera, ma proprio in chiave di esaltazione della nuova patria imperiale tedesca, quindi il monumento del Kyffhäuser, quindi gli affreschi e il monumento del Kaiserpfalz di Goslar, eccetera, eccetera. A quel punto I patrioti italiani, o quello che ne restava ai loro eredi, si trovano davanti a un Barbarossa che da secolare nemico era diventato in quel momento, direi quasi un amico o un amico degli amici. Si trovano davanti a un Barbarossa che, lo ricordava l'abate Zanella, era diventato uno delle insegne, insieme con Arminio, il monumento di Arminio di quegli anni, era diventato una delle insegne del nuovo impero che aveva inaugurato anche la politica di Kulturkampf. Quindi estremo imbarazzo, ma anche estremo interesse di queste reticenze dal punto di vista della cultura laica e della cultura di segno democratico italiano. Ovviamente, e con questo veramente termino, scusandomi perché ho abusato del vostro tempo, e ovviamente da tutto questo ne esce una osservazione dalla quale sarei voluto partire, ma forse sarebbe sembrata a quel punto un pregiudizio, che cioè evidentemente non è la storiografia su Legnano, storiografia che ha avuto tutta una serie di passaggi, dal Muratori fino al Vignati e oltre, con la traduzione anche di opere straniere importanti, tedesche e francesi, storiografia che ha avuto una tradizione illustre, non è la storiografia di Legnano, o della Lega Lombarda, o dei comuni del XII secolo, diciamo meglio così, che ha creato e che in qualche modo ha costruito, sia pure magari con tutte le distorsioni che un tema storico subisce fatalmente quando passa alla propaganda, non è la tradizione storica che ha costruito il mito di Legnano, l'antimito del Barbarossa, è vero il contrario. È vero cioè che, ed è stato detto già ieri, in senso più ampio, più generale, è vero che in fondo questa tradizione è una tradizione di tipo letterario che questi miti, questi leitmotiv si sono costruiti sulla base di un discorso fra il letterario e il lato senso culturale, usato in infiniti modi, in una gamma infinita che va dall'alta letteratura fino alla più chiara demagogia, ma rispetto alla storiografia vera e propria, evidentemente la storiografia è sempre restata in secondo piano. Questo non toglie evidentemente certi nomi come il Balbo stesso, il D'Azeglio, eccetera, eccetera, lo stesso Vignati, lo stesso Carducci ce ne danno prova. Questo non toglie che fra la storiografia anche qualificata, anche seria, italiana del periodo e questi aspetti propagandistico-mitografici non vi sia uno osmosi continuo, uno scambio, direi addirittura se si vuole uno scambio circolare, perché è la propaganda qualche volta che forse ha suggerito certi temi storiografici che poi magari sono stati trattati anche correttamente o addirittura egregiamente. Mi scuso di nuovo per l'eccessiva lunghezza del tutto e vi ringrazio. Vortrag, der ein klein wenig weiter ging, als der Titel sagt, denn ich glaube, 1876 war von Romantik kaum noch die Rede, aber umso interessanter war es, dass Sie bis 1876 gegangen sind, um Ihre These deutlich zu machen, dass die Geschichtswissenschaft nicht in erster Linie für das Bild Friedrich Barbarossas in der italienischen Öffentlichkeit des 19. Jahrhunderts verantwortlich ist, und doch sich nicht ganz dieser Sache entziehen kann. Sie haben deutlich zu machen versucht, dass es zwei Zeiten gibt, von den 20er Jahren bis zur Revolution von 1848 oder eigentlich genauer gesagt bis zu dem Umschwung in der Gesinnung Papst Pius IX, der von einem begeistert begrüßten liberalen Papst in weniger als drei Jahren zum erzkonservativen Reaktionär geworden ist, und damit also allen den Anhängern des Risorgimento oder Vertretern des Risorgimento sozusagen den Wind aus den Segeln nahm, die drei Jahre lang als Neoguelfen auf die Einigung Italiens mit Hilfe und in Bunde mit dem Papst gehofft hatten. Sie haben dann im Einzelnen gezeigt, wie drei Ereignisse Pontida, das wohl kein wirkliches Ereignis, sondern mehr eine Erfindung ist, nämlich das Zusammentreten der langobardischen Städte zum Schwur, zum Bund, Legnano, die Besiegung Friedrich Barbarossas durch die Mailänder und ihre Bundesgenossen 1176 und dann der Friede von Konstanz von 1183, die drei Punkte sind, in denen sich immer wieder das konzentriert. Sie haben einmal sehr nett gesagt, Legnano sei sozusagen das Leitmotiv des italienischen Risorgimento. Aber nach 1849 sind viele Anhänger des Risorgimento eigentlich so gegen Papst Pius IX. Und seinen Beschützer Napoleon III., dass die Feindschaft gegen Barbarossa darunter zurücktritt und erst künstlich zum 700-Jahr-Feier der Schlacht bei Legnano wieder hervorgeholt wird. Und Sie haben zuletzt, und ich hätte Sie gebremst, verzeihen Sie, ich bin ein grausamer Präsidente, aber da Sie gerade so das Wichtigste, was nun kam, erst in der letzten Viertelstunde gesagt haben, die Sie nicht mehr reden sollten, konnte ich Sie also nicht bremsen. Da kam dann die Schwierigkeit für viele Italiener, das zu feiern in einem Augenblick, wo die Gegner der Päpste deutschfreundlich waren, nämlich die Linken, wo in Deutschland der Kulturkampf begann, oder begonnen hatte, wo man mit Deutschland verbündet war und eben leider Gottes für Deutsche und Österreicher, das heißt also die Nachfolger des Alten Reiches, vorwiegend eben das eine Schimpfwort aus dem Risorgimento Tedesco hatte. Dass das ein Schimpfwort war, das kann man an unserem eigenen Institut noch merken. Das Deutsche Historische Institut in Rom heißt Istituto Storico Germanico. So ist es genannt worden, weil das Archäologische Institut Istituto Archeologico Germanico genannt wurde im Jahre 1874. Istituto Archeologico Tedesco war unmöglich. Und da hat man von Germania das Adjektiv Germanico gebildet und das ist dann 90 Jahre später oder 60 Jahre später auch auf unser Institut übertragen worden. So kann man also diesen Antitedeschismo der 70er Jahre noch an unseren Instituten erkennen. Aber das war jetzt kein, das haben Sie nicht gesagt, sondern das habe ich jetzt gesagt. Die Feier der 700-Jahr-Feier in Mailand ist offensichtlich nicht nur aus äußeren Gründen nicht so sehr geglückt, indem zum Beispiel von dem berühmten Denkmal der Schlacht von Legnano nur die Basis geweiht werden konnte. Das Denkmal ist erst 24 Jahre später aufgestellt worden, weil es eben vorher nicht fertig war. Die Intellektuellen, das heißt die antiklerikalen Demokraten, konnten aus Gründen, die ich eben sagte, dieses 700-Jahr-Feier nicht recht feiern, zumal da 10 Jahre vorher ein katholischer Geistlicher, Vignati, in seiner Storia Diplomatica, also urkundlichen Geschichte des Lombardenbundes, einen guten Teil der gemeinen Auffassung über den Lombardenbund und Barbarossa schon widerlegt hatte. Blieben also nur übrig die Kirchlichen, die Anhänger des Papstes, die Gegner der Sieger von Rom 1870, die dann aber eben keine große öffentliche Wirkung gehabt haben. Ich kann unmöglich die vielen Namen wiederholen, vielleicht zwei Dinge. Die Uraufführung von Verdis Battaglia di Legnano, von Verdis Schlacht von Legnano, hat Anfang des Jahres 1849 in Rom stattgefunden und hatte nichts von Anti-Barbarossa an sich, sondern war nur eine Verherrlichung des Freiheitskampfes der Lombarden. Weder der Papst, für den der damals auf Seiten der Lombarden stand, noch der Kaiser sind bei dieser Feier richtig vorgekommen. Und der große Dichter der italienischen Einigung, ein Freimaurer, ein Kirchengegner, Papstgegner, Giosuè Carducci, hat eine Canzone di Legnano, ein Gedicht über oder ein Gesang über Legnano angefangen und nie zu Ende gebracht, obwohl die Königin, mit der er in einem besonders auffallenden Verhältnis war, das heißt Als Republikaner verehrte er die Königin und machte auf diese Weise seinen Frieden mit dem Königreich. Obwohl die Königin ihn aufforderte, hat er diesen Gesang von Legnano niemals zu Ende gebracht. Einfach deshalb, weil nach 1870 Legnano sich nicht mehr eignete als Fahne für eine italienische Einheitsbewegung. Das ist die sehr verkürzte, ein sehr verkürzter Versuch der Zusammenfassung. Aber ich denke, es wird viele Fragen geben, die an Herrn Cardini zu richten sind und die er dann sicher gerne beantwortet. Wer möchte? Erstmal das große Schweigen. Herr Paula, Sie heben den Finger, also fangen Sie an. La mia domanda va un po' oltre quello per il tema di Barbarossa, però questa Liga Lombarda veniva sempre considerata come una cosa nazionale. Però che cosa si faceva con i re d'Italia, per esempio Arduino, o prendiamo poi Mastino della Scala, che voleva diventare re d'Italia e che veniva abbattuto dagli stessi italiani. Non si vedeva che questa Lega Lombarda non era soltanto una cosa nazionale, però una cosa contro qualcuno che voleva reggere l'Italia, che voleva rinnovare i diritti di un re. Sì. Sì, grazie. Dunque, io non so, il che non prova niente, io non so se il tema del Barbarossa, non come monarca, uso questi termini in senso molto lato, reazionario, cioè che impone, oltre che tirannico, che impone il rinnovamento di tradizioni antiche e desuete, ma invece l'altro aspetto, cioè quello del Barbarossa innovatore rispetto a una tradizione comunale che invece si era consolidata, e che del resto, beh, tutto sommato mi sembra che le fonti del tempo osservino da parte comunale questa serie di pretese di Barbarossa come novitates, con tutto il corredo anche negativo che all'epoca il termine novitas poteva avere anche dal punto di vista teologico. Non so se è mai stato trattato, se si possono trovare nei testi italiani prove di questo tipo, però ecco, il tema della Lega Lombarda come Lega non nazionale, che non coinvolge tutti gli italiani, ma che anzi è in fondo il prodotto di una situazione che lascia fuori una parte della realtà comunale lombarda, sì, questo è un tema molto trattato. Molto trattato naturalmente con tutta una serie di reticenze, perché negli stessi storici che ne hanno parlato, evidentemente, io credo che Cesare Balbo si possa, buon diritto, ottimo diritto, definire uno storico, e questi temi tornano di continuo con un crescente imbarazzo. Le faccio un esempio che ho dovuto espungere dalla mia presentazione per motivi di tempo: Cesare Cantù. Cantù, che non è certo un grandissimo storico, nel momento stesso in cui nel 29, intorno al, no, nel 28, scrive una specie di novella in versi dedicata alla Lega Lombarda, nello stesso momento lui scrive una storia di Como. Storia di Como che poi, se non erro, viene pubblicata fra il 29 e il 31. Ora, Como è, se c'è una città più ancora di Lodi che è rimasta ostinatamente fedele a Federico, per motivi che non sono il rispetto per il nomen imperio, che non sono soltanto quello, ma che sono evidentemente motivi politici estremamente concreti, è stata proprio Como. E Cantù avverte già il disagio, e ne parla anche ripetutamente, il disagio di questi italiani che al tempo del primo riscatto della patria si trovavano a combattere contro la patria. Dall'altra parte, Berchep, che va molto meno per il sottile, si scaglia proprio con parole durissime sia contro i giuristi di Bologna, sia contro gli italiani che erano stati dalla parte del Barbarossa. Ma il problema che era già un problema muratoriano, che poi viene esposto molto bene nei pensieri sulla storia d'Italia di Balbo, è proprio il problema della Lega Lombarda come fatto che Cesare Balbo, nel linguaggio del suo tempo, esprime con termini come lotta civile o lotta fratricida, addirittura, mi sembra. Certamente il problema storico può non essere quello, ma il disagio, questo era molto avvertito, insomma. Quindi il tema c'era. Naturalmente è un tema che è stato ridotto ed espunto dalla polemica sia pubblicistica sia parastorica o semistorica del tempo, perché ha prevalso l'altra idea, cioè l'idea che in fondo trova nel Berchet il suo teorizzatore più fortunato, che cioè tutta la nazione italiana insorge contro il Barbarossa, esclusi naturalmente alcuni che per motivi che sono sempre in un modo o nell'altro infami o perlomeno sbagliati, restano dalla parte di Federico. Ma è evidentemente la nascita di un tipo di mitologia che ha molto poco a vedere con la storia, tanto che gli uomini che si occupano di storia meglio di quanto non faccia il Berchet si accorgono immediatamente di tutto questo, probabilmente da Zelio, lo ripeto, mi sembra di averlo già detto, proprio a questo disagio deve l'interruzione del suo romanzo storico. Lui è partito volendo fare un romanzo storico che avesse, come gli altri suoi romanzi storici, il Fiera Mosca e Niccolò De Lapi, anche un messaggio nazionale da dare, di libertà e di in sottordine, molto in sottordine, perché questo è il clima del tempo, forse anche di unità della patria, lasciamo stare se federale o non federale. Poi si è accorto che onestamente un'operazione del genere non si poteva fare e allora ha lasciato da parte. Grazie. Prego. Questo Bordone è un po' più di voce. Voce. Paolo si è parlato, ha fatto un accenno ad Arduino, cioè come era stato considerato nel momento fondamentale Arduino. Io volevo ricordare proprio la presenza a Torino negli anni tra il 48 e il 49. Viene pubblicata una serie di libelli a carattere molto divulgativo, alcuni anonimi, altri firmati Gauvin, però non si sa bene di chi si tratta, che non a caso ripercorrono proprio questa chiave risorgimentale, il Medioevo in funzione appunto della liberazione d'Italia. I titoli sono tanto mai significativi: Il giuramento di Pontida, La battaglia di Legnano, L'assedio di Alessandria. Ora, proprio nel primo, quello dedicato al giuramento di Pontida, la storia d'Italia viene rievocata in maniera molto sommaria e sbrigativa da questo regista, partendo proprio dall'opposizione al tedesco fatta da Arduino, quindi la figura di Re Arduino viene vista in prospettiva chiaramente antistorica, anticipatrice del giuramento di Pontida. Per cui si passa da Arduino a Pontida a Legnano e si costruisce appunto questo disegno qui, Cardini aveva fatto riferimento prima, proprio negli anni tra il 48 e il 49, questi livelli che sono proprio dei volumenti probabilmente tipo appendici, cioè dovevano essere di larghissima tiratura, di grande diffusione, e veramente appunto cioè vedono in Arduino, primo re d'Italia, il sorgere di questa coscienza italiana che poi fa della Lega Lombarda la costituisce, il giuramento di Pontida come momento forte di italianità. E poi questo riferimento appunto all'assedio di Alessandria e in seguito alla battaglia di Milano. Cioè, però ecco, l'anticipazione del momento risorgimentale, l'interpretazione risorgimentale dell'opposizione al Barbarossa, in chiave proprio apertamente antitedesca, è una lettura dell'episodio di Arduino che si contrappone al secondo in chiave italiana. Questo è. Volevo solo aggiungere che siccome Paolo... Grazie, la professoressa Bocciani. Mi chiamo Ilaria Bocciani e mi sto cominciando a occupare di divulgazione storica nell'Italia post-Italia, quindi anche in analitica e così via. E vorrei fare una domanda... E vorrei fare una domanda e un'osservazione relativamente a temi di iconografia che ha qui accennato il professor Cardini. Prima di tutto una domanda, cioè vorrei saperne di più su questa iconografia di Federico Barbarossa, anche a partire dalle illustrazioni che riproducono appunto le testimonianze iconografiche pubblicate nel suo libro, e che sono... che è un tema che per me è abbastanza interessante, perché in alcuni manuali scolastici, soprattutto in quelli più per le scuole elementari, per il popolo, esiste una tradizione iconografica molto semplificata al punto che, come notavano già gli stessi ispettori o gli ambienti del Ministero della Pubblica Istruzione, quasi la stessa effigie viene usata per rappresentare alcuni imperatori romani, imperatori appunto come Federico Barbarossa o tutti italiani, addirittura i figli di Savoia. Quindi questa confusione quasi da carta da gioco, in qualche profilo da carta da gioco, che è ripetuto con minime varianti, e mi chiedo perché, che senso abbia questa confusione iconografica. E poi volevo fare un'osservazione relativamente a questa questione del monumento a Legnano per il centenario. Confermare pienamente, sono pienamente d'accordo con quanto ha detto Cardini sul senso emblematico di questa vicenda, emblematico di uno scontro a metà degli anni 70 tra questi neo-neoguerti e laici, diciamo, post-risorgimentali. Molto grossolana da parte mia. Perché non è un caso isolato, tra l'altro è abbastanza noto anche il caso del monumento ad Arnaldo da Brescia, che spaccò in due la Brescia di Zanardelli, e quindi provocando contrasti notevoli, evidentemente non legati al singolo fatto, ma a problemi tutti attuali. E vorrei rilevare appunto l'importanza di questa Imagerisi Vix, di questa rede urbana a cui si comincia, questa statuaria patriottica a cui si è cominciata a dedicare importanza in occasione del centenario di Garibaldi, forse per quanto riguarda i monumenti ottocenteschi che si riferiscono al Risorgimento, ma a cui non mi risulta che sia dedicata grande importanza, un'analisi dei monumenti appunto storici, diciamo, relativi a eventi storici o a fatti storici che si cominciano a collocare nelle piazze italiane accanto ai monumenti, ai sovrani e alle loro di Risorgimento. E questi monumenti, tra l'altro, sono molto importanti perché non hanno solo una funzione locale, in quanto vengono riprodotti con le nuove tecniche tipografiche che consentivano appunto riproduzioni più economiche, eccetera, anche tutta una serie di testi che hanno una circolazione nazionale, e questo è anche abbastanza interessante. D'altro canto nasce in questo momento il culto dei monumenti, specialmente medievali, comincia a nascere il culto dei monumenti medievali, intesi anche come simbolo delle specificità regionali del paese, attraverso tutta questa tradizione che si viene formando di una Italia unita, sì certo nazione, ma che è nazione anche in quanto accoglie le specificità delle varie regioni, quindi si esaltano appunto i singoli monumenti come esplicito riferimento a varie tradizioni regionali che confluiscono una tradizione regionale. E qui vorrei terminare facendo riferimento anche a quello che diceva Cardini, a questa quasi antiretorica di Bertolini. È abbastanza interessante che nella storia d'Italia di Bertolini, pubblicata da Vallardi in un grosso volume con fregi dorati, eccetera, eccetera, le illustrazioni numerosissime si riferiscono non tanto, quasi, ma mi pare quasi affatto, adesso dovrei controllare, a eventi dell'età comunale, ma si riferiscono a monumenti. E quindi, insomma, anche questo è interessante, mentre questo volume è un volume molto, diciamo, dedicato a un pubblico ambiente, colto in qualche modo, mentre nei volumi, diciamo, dedicati più alla divulgazione più bassa, c'è invece un flusso del momento eroico, quindi dell'evento, della figura, della scena. In questo manca soltanto. Ich wollte gerne fragen, Sie sind ein Mitarbeiter des Deutschen Historischen Instituts in Rom, ich bin da zuständig für das 19. und 20. Jahrhundert. Ich wollte gerne eine Frage stellen, dann nur eine Bemerkung machen. Ich habe vor einigen Jahren die Akten des Auswärtigen Amtes in Bonn zu den Jahren 75, 76 durchgearbeitet. Und in der Tat findet sich in den Berichten des damaligen Botschafters Keudel eine ganze Reihe von Hinweisen und Bemerkungen auf die Feierlichkeiten, die 1876 zur Schlacht von Legnano stattfanden. In der Tat hat die Berliner Politik und speziell die römische Botschaft damals dieses Faktum mit einer gewissen Besorgnis betrachtet, weil man fürchtete, dass aus diesen Feierlichkeiten negative Rückwirkungen auf das italienisch-deutsche Verhältnis abfärben könnte. Ich erinnere leider jetzt nicht mehr die präzisen Inhalte dieser Berichte, aber das Faktum, dass die Politik damals dieses historische Datum mit Besorgnis betrachtet hat, das in der Tat erscheint mir doch wichtig zu sein und bestätigt das, was Sie heute Morgen hier ausgeführt haben. Ich möchte auf einen zweiten Punkt hinweisen. Sie haben auf die Historisierung des deutschen Kaisertums, und auch gestern ist ja schon davon die Rede gewesen, hingewiesen. Mir scheint, und vielleicht kann Herr Weiß dazu mehr sagen, dass die deutsche Publizistik und die deutsche Diplomatie gegenüber der italienischen Öffentlichkeit nach 1870 sozusagen diese historisierenden Aspekte heruntergespielt hat. Es gibt eine ganze Reihe von Zeugnissen, auch aus der deutschfreundlichen italienischen Publizistik, etwa in der Nazione von Civini, wo man ausdrücklich darauf hingewiesen hat, dass diese Wiederaufnahme des Zweiten Reiches nicht einer Wiederaufnahme der deutschen Italienpolitik, sozusagen der klassischen historischen Italienpolitik des Ersten Reiches sein könne, sondern es hier tatsächlich etwas Neues beginne. Die Besorgnis vor der neuen deutschen Hegemonie des neuen deutschen Bismarckschen Reiches in Italien, bei Chabot, in den Premesse kann man das sehr schön nachlesen, hat sich ja zum Teil in diese historisierenden Besorgnisse vor einer Wiederaufnahme der deutschen italienischen Politik in der italienischen Öffentlichkeit begleitet. Und gerade vor diesem historischen Argument hat man von deutscher wie von philodeutscher italienischer Seite mit dem Hinweis auf den Neuigkeitscharakter und den Nationalstaatscharakter dieser Reichsgründung zu widerlegen. Ja, wenn ich da ganz kurz, weil ich angesprochen bin, nur eine kurze Notiz zu dem Ganzen. Civinini, der Direktor der Nazione, hat in der Nuova Andologia 1871 einen längeren Artikel, das Alte und das Neue Reich, veröffentlicht, wo er das Alte Deutsche Reich dem Neuen Deutschen Reich gegenüberstellt und die Verschiedenheiten aufzeigt. Und ganz am Anfang setzt er sich also mit der Angst der Italiener auseinander. Die haben also wirklich Angst gekriegt, offensichtlich, dass das Reich wieder entstanden ist, und der Begriff Reich hat sie geschreckt. Und da bringt er die Einwände zunächst, und dann setzt er also ein positives Bild dieses neuen deutschen Reiches entgegen, und es wird immer wieder betont, das alte deutsche Reich, das sei ja das römische Reich gewesen, während das neue, das habe damit überhaupt nichts zu tun. Das ist also das Reich, auch das ist das Preußische, das die Preußen führen, wird immer wieder betont, und nicht die Österreicher. Das gehört auch dazu. Also es ist ein deutscher Nationalstaat, der da entstanden ist. Das wird also von Civinini ganz fest herausgearbeitet. Auch weil es protestantisch ist und nicht katholisch. Und auch danke schön. Ja, Herr Cardini. Ja. Ich würde später Ihnen viele Sachen zu fragen. ecco, io intanto ringrazio Bordone perché ha aggiunto una tessera a un discorso che avrei dovuto fare anch'io e di cui avevo sparso qualche cenno, meno preciso di quanto non abbia poi detto lui, proprio sulla figura arduinica che effettivamente appartiene alla, diciamo così, preistoria dell'anti-Barbarossa, il discorso è un po' ingarbugliato. E certo, questa pubblicistica, io non conosco i casi, anche se ho scorso i vari repertori già segnalati a suo tempo da Martini su queste cose, la pubblicistica è molto vasta e io ho l'impressione che la si dovrebbe studiare, qualche tesi ho anche cercato di darla, ma per ora pochi risultati, la si dovrebbe studiare forse partitamente perché ci potremmo trovare davanti anche a qualche piccola sorpresa, non è tutta soltanto letteratura di colportage nel senso deteriore, se vogliamo, del termine, ma certamente c'è questo elemento come della valutazione di Arduino, come ce n'è un altro al quale io avrei dovuto e anche voluto segnalare, che avrei voluto e dovuto segnalarvi, cioè il fatto che per esempio una parte dell'opinione pubblica, diciamo così, neoghibellina, che poi come sapete dopo il 48 confluisce largamente nello schieramento mazziniano, comunque repubblicano, eccetera, e finisce col fare parte del grande fronte laico, e si trova a mal partito col mito di Barbarossa, perché Barbarossa per un certo verso è Barbarossa, per un altro però è il primo vento di soave, e quindi è il termine proprio usato proprio dal Niccolini, fra l'altro, è il buon Barbarossa di Dante ed è in un certo senso anche il nonno di Federico e l'avo di Manfredi e di Corradino, su cui c'è tutta una tradizione patriottica. Quindi paradossalmente gli Svevi vengono ad assumere il ruolo di una potenza negativa. La presentazione che ne fa Verdi, anzi Cammarano, è proprio un diabolus ex machina, Federico, che viene quasi fuori dal nulla, insomma, e per contestare i messi del Comune di Milano. Dall'altro però c'è un po' di disagio che già comincia per tempo nel mondo laico, non è forse legato soltanto a partire dal cambiamento, dai rapporti particolari tra il mondo della sinistra italiano e il mondo della monarchia imperiale prussiano tedesca. Questa simpatia strisciante per la casa Sveva, lo dico così in termini molto approssimativi per comprimere l'intervento, è qualche cosa che nell'opinione pubblica laica colta era in fermento già da tempo. Su questo bisognerebbe forse insistere proprio nello studiare la letteratura di colportage o questa letteratura iconografica che in realtà, per questo per rispondere alla signora Porciani, che in realtà è già stata in parte studiata, ma certamente varrebbe la pena di insistere su questo. Ci sono stati degli interventi non proprio recenti, a proposito proprio della iconografia in generale della pittura storica dell'Ottocento, le ultime cose proprio mirate su questo probabilmente sono quelle che sono state scritte da Francesca Bocchi fra 68 e 70, però poi successivamente ce ne sono state altre. Bordone, che ha parlato un attimo fa, si è occupato non di Federico Barbarossa, ma penso che prima o poi finirà con caderci sopra, proprio recentemente, nei quaderni medievali, quindi un primo avvio anche bibliografico a questo problema potrebbe essere dato proprio da queste cose, perché in effetti in tutta una tradizione che comincia da Ies e finisce molto oltre Cassioli eccetera, fino a Cao, quindi primi del Novecento, cioè, si ha veramente un insistere su questi temi che non sono soltanto, come ho detto semplificando io, Pontida, Costanza, Legnano, ma che sono anche temi secondari. Per esempio a Cassioli a un certo punto, non mi ricordo chi, verso il 61, commissiona un quadro sull'episodio famoso dell'assedio di Crema, quando Federico fa legare i congiunti prigionieri a dei difensori, e i difensori naturalmente continuano a tirare, eccetera, eccetera. Quindi c'è tutta una tradizione, ed è anche iconograficamente direi interessante. Per esempio il ritratto, lo chiamo così per modo di dire, è di che Cassioli fa all'imperatore caduto in primo piano nel grande quadro della battaglia di Legnano, e della conservata alla Galleria d'Arte Moderna a Firenze, è interessante perché lì c'è anche proprio un tentativo di tipizzazione, di ritrattistica anche molto, molto efficace, anche dal punto di vista, beh, direi che nel caso di Cassioli si può parlare senza dubbio di un punto, anche dal punto di vista artistico, dove per il resto c'è il ritorno di questa simbologia patriottica, sì, ma riletta in chiave massonica, alla luce della quale chiave massonica si recupera anche la religiosità cristiana del Carroccio, come del resto è logico. E così, a proposito di Arnaldo da Brescia, io non avevo presente francamente l'episodio della Brescia di Zanardelli, eccetera, però il discorso mi rendo conto che è coerente, che costruisce un quadro abbastanza coerente della problematica di quel tempo che andrebbe studiata, come andrebbero studiate grazie dell'osservazione che mi ricorda fra l'altro una cosa che io dovrei avere a portata di mano come fiorentino, le cose di Civinini, eccetera, che sono altrettanto importanti. Vorrei soltanto far notare questo, io al solito non ne ho parlato e me ne scuso per motivi di tempo, ma in un altro testo che insieme al sommario della storia d'Italia di Balbo è veramente andato, circolato per tutte le mani, che ha in un certo senso anche aiutato l'Italia a muovere il problema, non dico dell'alfabetizzazione, ma del passaggio da un livello quasi zero di cultura a un livello più elevato. Beh, la storia universale di Cantù, per esempio, che è un testo che dedica a Barbarossa tutto un intero capitolo, e che naturalmente è un testo di sintesi, di terza mano, a cui non si può chiedere di più, ma dove per esempio nelle note dell'edizione dell'87 c'è un resoconto accuratissimo delle polemiche Niccolini, Balbo, La Farina, eccetera, proprio a proposito di Arnaldo da Brescia, da cui per esempio, io lo dico probabilmente cose che agli specialisti sono notissime, ma che a me personalmente, che incontravo per la prima volta con attenzione, con un po' più d'attenzione, un testo notissimo come La storia universale di Cantù, hanno fatto anche cambiare un po' idea su queste cose, perché mentre il testo è estremamente semplice e risaputo, per così dire, ma sapercelo trovare anche lì ci sono dei problemi, le note sono note ricchissime e non tanto di polemiche o di messe a punto storiche, ma soprattutto di riferimenti impliciti o espliciti di carattere politico, polemico, che forse avrebbero bisogno di una codificazione. Del resto questo lo dico perché non tutti, può darsi che qualcuno non lo sappia, la signora Porciani ha scritto un libro proprio sul lavoro di Viesse a Firenze, eccetera, che è stato uno dei miei punti di riferimento. Lei si troverà citata negli atti, anche se per mancanza di tempo non ho potuto citarlo nel corso della mia esposizione. Quindi grazie. Gut, es sind noch zwei Wortmeldungen, dann sollten wir aber aufhören. Herr Forni und Herr Forni. Sono Forni, sono medievista e mi sono interessato nella storia di Roma nel Medioevo e quindi di due storici tedeschi che l'hanno studiata nel secolo scorso, Gregorovius e von Rohmann. Allora, volevo chiedere al professor Cardini come giudica la fortuna che l'Arnaldo da Brescia di Colombia, in Germania, proprio attraverso un tedesco, von Rohmann, che operava a Firenze nel centro del Viesse e che la letta in pratica a Federico Guglielmo IV pubblicamente, e domandargli se lui non giudicava la Cosa Rossa come un tiranno, però un tiranno capace di unificare l'Italia, sempre con la storia di sé, non lo ha fatto, ma avrebbe potuto farlo come Napoleone avrebbe potuto unificare gli Stati tedeschi. Vi voglio chiedere quindi quanto viceversa sugli storici italiani abbia influito l'immaginario di Federico Barbarossa come tiranno a fronte di un'Italia completamente disgregata. Perché è vero che nel secondo atto della battaglia di Legnano c'è uno scontro tra i maschi e i milanesi, milanesi vanno a Como e chiedono ai comaschi di partecipare alla Liga, i comaschi rifiutano e c'è una valanga del testo e della musica, se così vogliamo, nei confronti dei comaschi, considerati barbari stranieri. Però a un certo punto arriva Federico Barbarossa improvvisamente e definisce l'autore delle estremità. Quindi chiede in quale misura l'immagine di Federico Barbarossa presso gli storici italiani non fosse anche un simbolo di unità rispetto a tante divisioni che tra le città italiane si producevano. Peter Schoen. A Tifoni. Io volevo ritornare al discorso che si è fatto un sì, alzi per favore, se no non vediamo da qui e non possiamo neanche. Il discorso che si è fatto alcuni minuti prima, cioè, mi pare che si va verso la Costituzione già di un piccolo repertorio di miti medievali dell'Ottocento italiano, evidentemente, che è una delle ragioni di questo incontro. Allora io volevo esaminare alcune delle cose che vorrei intervenire su alcune delle cose che aveva detto il professor Cardini, più sul versante legnanese che sul versante federiciano. Parlando di miti, il professor Cardini ha parlato spesso del mito della battaglia di Legnano. Credo che a questo punto dovremmo cominciare però ad assumere delle definizioni di lavoro, perché se no la cosa rischia. Parla lentamente, così almeno capiscono direttamente anche i tedeschi. Perché se no la cosa rischia di assumere, insomma, l'incontro rischia di assumere nel proprio orizzonte una serie di cose che forse non sono precisamente tutte omogenee. Allora, non lo so, come definizione di lavoro, per esempio, il mito potrebbe essere una credenza ad alto valore suggestivo che attraversa verticalmente l'intera società. Ecco, questa come definizione opera. Allora, mito di Legnano. Chiedevo al professor Cardini se quello di Legnano può davvero essere definito un mito, nel senso che mi chiedevo un supplemento di informazione rispetto ad alcune caratteristiche e cercavo di chiederglielo in positivo, cercando di fare un paragone con quello che secondo me è stato veramente il più grande mito medievale dell'Ottocento italiano, soprattutto del secondo Ottocento italiano, un mito molto complesso che è sostanzialmente il culto di Dante, intorno a cui si annodano mille questioni, si annoda la libertà comunale, si annoda il gusto per il genio solitario, il mito dell'esule, si annodano poi anche questioni collaterali, nel senso che la capacità di un mito di essere tale è anche direi di creare un indotto, allora questioni come l'autenticità della cronaca di Lino Compagni, strettissimamente legata alle testimonianze che la cronaca di Lino Compagni conteneva sulle eventi danteschi, testimoniano di questa capacità di creare un mito. Allora, dicevo del culto di Dante, per cui si creò anche un apposito, la dantofilia, la dantologia. L'impressione è che il culto di Dante, non so se il mito di Legnano, continuiamo a chiamarlo così come il mito di Legnano, il lavoro, sia stato in grado di dare delle specie di scariche molto forti all'immaginario collettivo, di aver attivato una serie di livelli sociali e culturali. Perché il culto di Dante produce scienza, soprattutto negli ultimi due decenni del secolo e poi anche nei primi decenni del Novecento. Produce eruzione, ovviamente, eruzione diffusa, disseminata, provoca interpretazioni bizzarre. Mi ha colpito quella cena esoterica che c'era nella relazione del professor Cardini, la cerimonia di iniziazione, eccetera, perché anche su Dante si sono divertiti, ovviamente molto di più, molto di più. Produce una dimensione diffusa di massa che è molto interessante, produce insomma quelli che si possono chiamare gli innocui passatempi di paese, cioè la dantofilia dei generali in pensione, dei farmacisti. Io mi ero divertito a fare una scheda pure un pochino di anni fa sulla bibliografia dantesca di Passerini e Mazzi. Venivano fuori appunto gli unici purtroppo tre titoli che mi ricordo, sono l'orario completo della Divina Commedia, che era stato pubblicato insomma, all'Africa. Il prontuario del Dantofilo, naturalmente, che era una cosa da portare in tasca per avere pronte le citazioni. Poi molto interessante, questa è un'altra, si colloca un po' su un altro livello, Cesare Lombroso che scrive Dante in diretto, molto molto interessante perché l'antropologia lombrosiana che si incrocia col, col culto del tempo. Ma ancora poi un mito, un grande mito, produce oggetti d'uso, fermacarte, calamai, santino, figurine, col bordaggio. Col fortaggio. Ecco, volevo chiedere se alla luce di questo, con un supplemento di informazione, Legnano è stato un mito. Grazie. Grazie. Posso? Dunque. Brevissimamente, anche perché francamente ho più da imparare che non da dare informazioni a questo riguardo. Tanto io ringrazio Forni perché per me è questo problema della fortuna di Nicolini in Germania è poco più che una scatola vuota, nel senso che so che c'è stato, ma francamente ecco non ne conosco i termini. Non ne conosco i termini e quindi è abbastanza un gioco ozioso, sarebbe da parte mia provare a fare delle ipotesi, che semmai sono sempre legittime, ma appartengono al foro interno di qualunque studioso o persona che tenti di esserlo. E, direi comunque che c'è un elemento importante, tutto il discorso importante che lei Forni ha fatto, c'è un elemento che mi richiama a un tema più ampio e qui ci si potrebbe ricollegare alle osservazioni di Artifoni sul mito, proprio il tiranno Simma Unificatore, che notoriamente nell'Ottocento italiano questo è un tema molto sviluppato, ma ecco, e qui forse indirettamente può rientrare anche il discorso di Artifoni, ma è un tema che si sviluppa in una direzione che non può investire Barbarossa, per così dire, io non so, fra breve preciserò in che senso non lo so, se Legnano si possa veramente definire un mito, ma certamente ecco, Legnano ha inserito in un meccanismo di anche mentale, se si vuole, di lungo, di lunghissimo periodo, tutta una serie di censure, se si vuole, anche censure collettive da parte dell'immaginario storico italiano, per cui il discorso del tiranno però unificatore ha potuto funzionare, che so io, per Gian Galeazzo Visconti, ha potuto funzionare per altre figure, non ha mai funzionato per Federico perché nei confronti di Federico è scattato presto, per tempo, periodo appunto fra gli anni 20 e gli anni 40, con una concentrazione tra le fantasie e l'abate Tosto, cioè fra il 29 e il 49, date che non sono così puri punti di riferimento cronologico, ma che sono anche date significanti, cioè il 48 nel mezzo, in tutti i sensi della parola, questa censura nei confronti del Barbarossa, questa damnatio memoria italiana del Barbarossa, ha funzionato in un tempo in cui il problema, per esempio, della libertà della patria, più della libertà che dell'unità evidentemente, era un problema fondamentale e ha creato un tipo di scorza praticamente di cultura diffusa negativa intorno alla figura del Barbarossa che è stato difficilissimo direi per generazione infrangere. Il problema del dibattito degli storici era evidentemente un altro problema. Quindi il tiranno unificatore, l'idea del tiranno unificatore è poi passata a tutto un immaginario anche superumano, dannunziano, nicciano attraverso questo filtro più o meno di D'Annunzio, eccetera, c'è stata, però non ha mai investito il Barbarossa, nonostante appunto in fondo e in Nicolini si potessero trovare, forse non solo in Nicolini, ecco, io alla luce proprio di quello che lei mi suggerisce, appunto rifarei una lettura più attenta anche dello stesso lavoro di Cammarano, non so fino a che punto Cammarano abbia attinto certe idee al solo Nicolini, e può darsi anche che Cammarano stesso sia in fondo un iniziatore di certe, quello che ha avviato un certo tipo di valutazione. E a questo proposito, ecco, per collegarmi alla cosa di Artifoni, direi è importantissimo, sono perfettamente d'accordo, la definizione di lavoro di mito. Io l'ho ho scansato questo problema e direi con forse un tantino di inconscia, devo dire inconscia, ma comunque obiettiva disonestà, perché è un grosso problema, come sono sempre i problemi sui dibattiti, i dibattiti sul mito, no? Ho detto semplicemente mito fra virgolette, il che in maniera un pochino più grossolana di quanto non abbia fatto Artifoni, chiariva che anch'io ho dei dubbi sul problema che il mito di Legnano sia un mito vero e proprio, proprio nel senso della credenza ad alto valore suggestivo, capace proprio di attraversare e coinvolgere una vera società. Se avessi parlato del mito di Dante nell'Ottocento, ecco, non avrei fatto la riserva delle virgolette, mentre per Legnano ho creduto di doverla fare, e perché? Ecco, proprio sulla base delle anche osservazioni e sollecitazioni di Artifoni, direi che le ragioni per cui ho messo le virgolette sono queste. Anzitutto, un problema che avrei, questo veramente, voluto affrontare, se avessi avuto tempo, ne ho avuto anche troppo, ma insomma ancora più tempo per quelli che sono i miei parametri di lentezza espositiva. Il problema è che il mito di Legnano è un mito regionale e che nel primo risorgimento italiano, nella prima metà del secolo, nel pre-48, i miti di liberazione della patria sono sempre miti nazionali. Se Stan osserva, è un'osservazione da par sua molto, molto fine, che è buffo che per esempio i ragazzi di Curtatone e Montanara non si siano ricordati di Legnano quando la battaglia è avvenuta, guarda caso, proprio il 29 maggio. Ma in Toscana all'epoca si parlava ancora di altri miti, sempre tra virgolette, equivalenti in un certo senso a Legnano, che avrebbero potuto portare a uno sbocco simile. So, per la Toscana, la Legnano della Toscana forse è Gavinana, forse è Ferrucci, una Legnano perdente se volete, ma il mito toscano, sempre tra virgolette, della liberazione della patria dallo straniero e dal tiranno straniero, e dallo straniero perché tiranno e viceversa, si coagula in Ferrucci, nel sud si coagula nei Vespri, con tutto poi quella problematica a cui si faceva cenno prima, per cui l'essere antisvevi va bene, ma non si può esagerare, perché tutto sommato Barbarossa poi ha prodotto quel fior di nipoti e pronipoti, eccetera. Il mito, non so, italo-occidentale, non naturalmente piemontese, è Balilla. Non è un caso che in Fratelli d'Italia Mameli a un certo punto faccia una specie di confederazione, già di segno, diciamo così, confederale mitico, e faccia proprio la lista dei miti. Dall'Alpi a Sicilia ovunque Legnano, i figli d'Italia si chiamano Balilla, c'è un'altra cosa che non ricordo su Ferruccio, sui Vespri, sulla squilla dei Vespri, eccetera. Quindi questa regionalità, che del resto è logica, visto come l'andamento del primo movimento risorgimentale, è già un primo elemento che osta forse alla definizione di mito nel senso che Artifoni proponeva, e che io direi si può accettare anche se non altro come definizione di lavoro, perché la società italiana non è mai stata attraversata del tutto completamente dal mito di Legnano, se non curiosità, ironia, non so come chiamarla, quando questo mito di Legnano aveva già perduto gran parte della sua carica di significatività. Cioè è proprio quando entra in crisi, perché entra in crisi il neoelfismo, che nello stesso tempo si dilata e diventa colportage, ma a quel punto certamente aveva perso forza. Forse, tanto per fare il solito discorso pascaliano della scommessa, del resto se n'è già parlato a proposito del giochetto di Gioberti su che cosa sarebbe successo se avesse vinto Barbarossa, e forse, ecco, c'è da domandarsi che cosa sarebbe successo se le cose del 48-49 fossero andate diversamente in ordine al mito di Legnano. Forse allora avremmo potuto togliergli le virgolette, ma notoriamente questo non è un problema storico. Non ha prodotto, direi, Legnano scienza e erudizione. Diciamo un'altra cosa, e penso su questo siamo tutti d'accordo: è stata spesa in Italia e fuori d'Italia, ma da muratori avvignati e oltre, molta scienza e molta erudizione su Legnano, però certamente, ecco, Legnano non è stato il motore di questo, è stato piuttosto uno dei tanti elementi coinvolti, non direi che Legnano sia nemmeno lontanamente paragonabile, anche in ordine al problema della libertà e dell'unità della patria, a quello che è stato il culto di Dante, se non fosse altro per le implicazioni anche soltanto linguistiche, eccetera. Mentre invece, ecco, tanto per sollecitare Artifoni su una cosa, un po' un interesse che credo ci unisca un po', questo problema invece degli oggetti d'uso, su questo bisognerebbe guardarci un po' con attenzione. Io conosco, casualmente, è una casualità a cui negli ultimi mesi sto facendo più attenzione, ma conosco tutta una serie, certo non siamo alla Morris Craft, non siamo a questi livelli, ma tutta una serie di oggetti d'uso, non so se una pittura in un certo senso si potrebbe anche definire un oggetto d'uso, una decorazione eccetera, ispirati proprio a Legnano o a Ponti da Legnano, soprattutto celebrativi eccetera eccetera, ma che veramente arrivano al calamaio. Però ho un dubbio perché la maggior parte degli oggetti che adesso proprio rispondo così perché interrogato su questo, che io mi ricordo anche visivamente, sono tutti oggetti che per esempio riproducono, e non è facile sempre da fare queste cose, anche se ci sono gli strumenti per farlo, per esempio riproducono il monumento di Butti. Ecco, il monumento di Butti a partire dal primo Novecento ha avuto la marca delle biciclette, no? Però siamo a una fase successiva in cui il Legnano a cui si fa riferimento è un Legnano ormai veramente usurato, scolasticizzato, che poi Legnano e quindi il monumento di Enrico Butti, e siamo a quelle cose lì. Che, una coccia di maglia degna di Armani. Ecco, questo potrebbe essere un modo di fare un revival di Legnano attualmente dopo quelli del 14 e dopo quelli del 43-45, che sono anch'essi una fase proprio interessante, però naturalmente c'è sempre questo spostamento di cose. Ecco, no, ho coscienza di non aver risposto granché, comunque certamente mito fra virgolette. Grazie. Questa storia c'è fatta. Battere correva per la Legnano. Wir machen jetzt eine Pause von 10 Minuten. Ich bedanke mich bei allen, die Vortrag gehalten und an der Diskussion teilgenommen haben.